suis rythme et je suis frénétique. Anche più calmi ma benefici. Sulla testa o qualcuno ti calpesta. Quel che so già lo so, quel che è scuro sembra più puro. Ma se è scuro, la strada nuova rompe le uova a quella gente che è sofferente. Non fisicamente, ma di pigrizia e della mente. Semplificare. E poi pensare che è tutto chiaro. Ora puoi ballare. D'Agostino. Gigi D'Agostino. RIN, Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. You say you

novità. Taradatata. Alzate gli occhi al cielo, guardate lassù. Guardate su. Voli che si intrecciano. Simbolici dell'acqua possono essere ridotti a tre filoni fondamentali: acqua come sorgente di vita, acqua come purificazione e acqua come mezzo di rigenerazione. I apologize for once. non fare lo scontroso. Gigi D'Agostino. dagli un ascoltino. Dagli un ascoltino. pubblicità. Taradatata. Il programmino è a riposo. Non fare lo scontroso. Tra le nuvole, passeggiando lassù. Tutti insieme, assaporando la vita, D'Agostino. momenti. Un po' struggenti. Tanti cambiamenti. Tutto ti appare chiaro. E tu ne eri ignaro. È tutto meno pesante. Tutto può cambiare. Basta lasciarsi andare. Musica. Siamo in galleria, c'è poco campo. Accendi fari. Vai piano. Neanche troppo. Piede a tempo. Passa il tempo e più mi piace il tempo, più passa il tempo e più mi piace il tempo. E Gigi D'Agostino. Passano, così come li facciamo passare noi. È inutile chiedersi com'è stato, come sarà. Chiediti come sei stato e come sarai. Non è il 2004 che potrà essere diverso. Sei tu che potrai essere diverso. Sei tu che potrai cambiare il 2004. Non è il 2004 che potrà cambiare te. ponte, guardando scorrere il fiume sotto di te. I paesaggi che si riflettono sopra l'acqua. Si incrociano e appena parte il tempo, le mani a tempo. Che bel tempo.

magazzino devastato, due teste spaccate come zucche al sole, un ferito e un uomo castrato, il tutto in due ore. Due ore che ti ho lasciato solo, due ore! Talete, considerato il primo dei filosofi, diceva che tra la morte e la vita non v'è alcuna differenza. Qualcuno gli replicò: «E tu perché non muori allora?» E Talete rispose: «Proprio perché non c'è nessuna differenza». Città, taradatata. RIN, Radio Italia Network, il programmino di Gigi D'Agostino. Of my dreams. cammino e al riposo non faranno scontroso. Good night, baby, good night. When tomorrow comes, I reborn looking in your eyes. Baby, good night. Sleeping tight alone, you'll wake up feeling warm. When tomorrow comes, I reborn looking in your eyes. Mi castigo, tu amor será mi alegría. Un altro grande filosofo aveva scritto, un filosofo del 1600, Cartesio: il buon senso è la cosa nel mondo meglio ripartita. Ciascuno infatti pensa di esserne ben provvisto. Fa pensare, fa riflettere, fa volare. È l'avventura della mente. È il cammino del programmino di Gigi D'Agostino sulla testa. Cammino del programmino. È il rumore del silenzio. È sempre più forte.